dopo una breve interruzione, per meditare stasera sulla conclusione, l'ultimo mistero della gioia, Gesù perduto e ritrovato nel tempio fra i dottori. Sì. Ci fa pensare un pochino che anche Gesù faceva le sue scappatelle, no? E poi probabilmente anche i santi hanno fatto le loro scappatelle, però sempre scappatelle innocenti. Sì. Ecco, a te la parola. Grazie Dontino. Allora, penso che anche la coincidenza di meditare questo quinto mistero della gioia proprio oggi nel giorno di tutti i santi ci può aiutare a scoprire nel Vangelo indicazioni per vivere bene la nostra vita quotidiana avendo davanti la meta del cielo. Quindi che indicazioni ci vengono da questo episodio del Vangelo, dall'esempio di Maria, di Giuseppe e di Gesù? Ecco, questa è un po' un'idea che ho sullo sfondo. Poi, come sempre, io cercherò di dividere il brano di San Luca, che anche in questo caso è San Luca che ci dà tutte le informazioni su questo quinto mistero, in 7 quadri, o meglio direi 7 inquadrature, no? Come se fosse un piccolo film, con una piccola sequenza di un film sulla vita di Gesù, in cui ci sono 7 inquadrature. Ogni inquadratura sono brevi versetti del Vangelo. E allora noi cominciamo subito. La prima inquadratura. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Solo Giuseppe era tenuto ad andare, e dai 12 anni anche Gesù, come ogni israelita maschio. Ma Maria non lascia Giuseppe e Gesù non aspetta l'età. Possiamo pensare che vadano insieme tutti gli anni. Anno dopo anno, Maria guarda Gesù che cresce. Gesù fanciullo che si prepara con grande desiderio a quel viaggio. Mi vengono in mente le parole del Salmo: verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. Nel guardarlo in cammino, la Madonna, 140 km di marcia, si ricorda delle parole del Salmo: attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. E allora noi possiamo pregare così quando recitiamo il rosario, questo quinto mistero gaudioso. O Padre, che hai preparato per la crescita del tuo figlio una famiglia piena di amore per il tuo tempio e per le feste che rendono presente la storia della salvezza, concedi a tutte le famiglie cristiane di riscoprire e conservare l'amore per la liturgia e per la festa, nella quale tu, con il tuo figlio, nell'unità dello Spirito Santo, sei presente e agisci. Allora io, come ho fatto anche le altre volte, leggo il brano che ho scritto nel mio libro Contemplare Cristo con gli occhi di Maria, i misteri del rosario meditati, però poi aggiungo qualche altra considerazione. E i pensieri che mi sono venuti in questa prima inquadratura sono questi: che la famiglia di Nazareth si muove con le caratteristiche della normalità, è una famiglia come le altre del popolo di Israele. Il Vangelo infatti dice: i suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme, quindi loro, Maria e Giuseppe, noi sappiamo, conosciamo il mistero della maternità virginale di Maria, però di fronte agli altri sono i genitori di Gesù. E Maria va con lo sposo e con il figlio. Questa, secondo me, è un'indicazione di unità della famiglia. Lo sappiamo benissimo che la famiglia di Nazareth è unita, però è bello ritrovare nel Vangelo, in un episodio della loro vita nascosta, diciamo così, questa indicazione dell'unità. Stanno insieme nei viaggi e la Madonna non era a suo stretto dover andare, però va. Un terzo pensiero che mi viene guardando la famiglia di Nazareth è la fedeltà appunto alle consuetudini religiose, e questa a me pare un'indicazione per noi che desideriamo essere santi nella vita normale, quotidiana, di ogni giorno, e che vogliamo arrivare appunto in cielo come oggi festeggiamo i santi del cielo. Come? Ecco, il Signore ci dà un'indicazione. fedeltà a queste consuetudini che ci aiutano a dedicargli del tempo, un tempo familiare, un tempo settimanale, la domenica, ma anche dei tempi personali ogni giorno, dei tempi ritagliati secondo le nostre capacità, secondo le nostre possibilità, secondo il consiglio che possiamo ricevere nella direzione spirituale. Però poi cerchiamo di essere fedeli a quei tempi per Dio e di cui abbiamo bisogno. E quando l'obiezione può essere quando non ne sentiamo il bisogno, quando anche questi tempi di preghiera diventano difficili, aridi e duri, e allora ne abbiamo più bisogno ancora, è Dio che ci chiama a stare con Lui. Quando abbiamo sete abbiamo più bisogno ancora della fonte dell'acqua, anche se per raggiungerla ci può costare fatica. Allora, in questo senso possiamo mettere l'attenzione in questa prima inquadratura al fatto che Maria, Giuseppe e Gesù salgono a Gerusalemme. È una salita, si fa fatica, però vale la pena. Passiamo alla seconda inquadratura, forse potrei chiamarla il significato nascosto delle contrarietà, il significato bello, vero, di ciò che appare come qualcosa che non si capisce. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. E questo fatto ci sorprende. Non si sono accorti. Giuseppe, uomo giusto, e Maria, donna piena di grazia, non si sono accorti che il loro unico figlio, dodicenne, rimaneva a Gerusalemme mentre riprendevano la via del ritorno. Impossibile pensare a una distrazione nel senso di una disattenzione per poco amore, no? Ci sarà stata una causa esterna che li ha indotti all'equivoco. La carovana era composta separatamente da uomini e donne, questo potrebbe spiegare che abbiano pensato: è con Giuseppe, è la Madonna, oppure è con Maria, oppure è con i parenti che gioca con loro come è abituato a fare, no? E si fidano totalmente di questo insieme di parenti, di amici, di conoscenti, perché c'è tra loro un clima molto bello. Ma il motivo più certo di quello che è avvenuto è che Dio permette a volte che noi non ci accorgiamo, che noi non pensiamo a un aspetto di una questione, di un problema che fa parte della nostra vita. Altre volte notiamo con chiarezza che Dio ci aiuta, ci ricorda con i suoi angeli che ci suggeriscono qualcosa, ci previene, ci ricorda, ci ispira. Altre volte invece Lui stesso interviene perché noi non badiamo, non pensiamo a qualche cosa e ci oscura un po' la mente, agisce, permette che accada qualcosa senza che noi ce ne accorgiamo. Allora, alla fine noi possiamo pregare così: nelle tue mani, Dio, sono tutti i miei pensieri, le mie azioni, i miei giorni, cioè mi abbandono in te, mi fido di te, però anche accetto da te quello che siano i miei limiti nelle mie attenzioni. O Dio onnipotente, che hai voluto che tuo figlio dodicenne rimanesse a Gerusalemme senza che Giuseppe e Maria se ne accorgessero, concedi a noi, per la loro intercessione, di accorgerci sempre che qualunque contrarietà che accada, senza nostra colpa, è prevista o permessa dalla tua volontà, per un bene più grande. E di fatto pregare così penso che sia per noi un atto di fede forte, pratica, vera, così vissuta nella nostra vita di lavoro, nella nostra vita di famiglia, nella nostra vita di relazioni sociali, nella nostra vita ordinaria. Dobbiamo dire: mi fido di Dio, della sua onnipotenza che arriva anche fino alle più piccole cose. E mi veniva in mente, preparando questa seconda inquadratura, che un biografo di Giovanni Paolo II ricordava che quando fu nominato vescovo ausiliare di Cracovia, allora c'era il regime comunista che voleva avere l'elenco, voleva scegliere lui, voleva accettare il nominativo, e i primi li scartò perché li considerava nemici della propria impostazione. E invece quando arrivò il nome di Karol Wojtyła dissero: questo è un poeta, non farà nessun danno. e poi dopo si resero conto che invece la forza che aveva e la fede grande che aveva, e solo che Dio aveva pensato di un programma molto importante per lui, di portarlo fino al papato, no? Per cui oscurò la loro mente, non gli fece accorgere che della grande santità di quest'uomo. Così come mi ricordo San José María, il fondatore dell'Opus Dei, che quando morì sua sorella Carmen, a cui era molto legato, anche se la Carmen non era dell'Opus Dei, però lo aveva aiutato moltissimo, aveva dedicato la sua vita a stargli vicino. Lui celebrò la messa proprio nella sua casa, vicino al suo corpo di defunta, per lei, no? E quando celebrava col canone romano, arrivò al quel silenzio in cui si ricordano proprio i defunti, e lui lì non si ricordò di pregare per lei, e finita la messa si accorse e pensò che il Signore gli aveva impedito di ricordarsi di sua sorella in quel momento in cui lui era abituato da sempre a ricordare tutti i parenti e gli amici defunti, perché gli voleva dire: guarda che tua sorella Carmen non ha più bisogno di suffragi, è già in cielo. Oppure mi ricordo anche che lui, quando un ragazzo, eravamo insieme a Roma, un incontro con studenti, gli chiese: mi dia un consiglio per combattere le distrazioni che mi vengono spesso nella preghiera. E lui gli disse: cerca di trasformare le distrazioni in preghiera, cioè prega per quello per cui ti sei distratto, no? E allora da allora spesso cerco di ricordarmi che una distrazione, magari quando diciamo il rosario, può essere anche un'ispirazione, e la Madonna vuole che preghiamo per quella persona, che ringraziamo per quel dono, che chiediamo perdono per quella cosa che abbiamo fatto male, che affidiamo totalmente a Dio attraverso le sue mani profumate un problema che ci assilla. Terza inquadratura, la chiamerei così: i difetti uniscono gli sposi che si amano. Credendo che egli fosse nella comitiva, scrive San Luca nel suo Vangelo, fecero una giornata di viaggio, poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Gesù adolescente è pieno di vitalità, di amicizie, sempre in compagnia di parenti e conoscenti, da loro è cercato perché la sua presenza porta simpatia, allegria, serenità, pace, e Giuseppe e Maria lo lasciano fare. Pieni di illimitata fiducia, godono della sua libertà di movimento. Ma alla sera di quel giorno, quando si ritrovano per passare la notte, si rendono conto che Gesù non c'è e che non è stato con nessuno dei parenti e degli amici. Nessuno lo ha visto. Tornano allora di notte verso Gerusalemme con il cuore in subbuglio. Giuseppe e Maria, però, non si accusano a vicenda. Piuttosto si fanno forza, si sostengono. Si affidano al Padre del Cielo e ai Suoi angeli. Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai permesso che Maria e Giuseppe soffrissero insieme la prova dello smarrimento del loro figlio divino, concedi a tutti gli sposi di sostenersi sempre nelle prove e di trovare in te la loro forza. A me pare che Maria e Giuseppe ci diano un bellissimo esempio. Forse sono angosciati, poi lo dicono nel vedere Gesù. Piangono forse. E cosa pensano i genitori quando un figlio si è perduto, non torna? Pensano al peggio, e però non discutono tra di loro, si appoggiano l'un l'altro, trovano la forza dell'unione, la forza del matrimonio è una forza grandissima. Occorre che i coniugi si appoggino sulla forza del matrimonio. È fortissima la forza del matrimonio anche solo quando fosse un patto naturale tra due persone non battezzate per tutta la vita. Però per i battezzati è anche un sacramento, cioè ci dà a chi si è sposato tutte le grazie necessarie per affrontare tutte le difficoltà, tutti i problemi della vita di coppia e della vita educativa da genitori. Per cui i coniugi cristiani devono appoggiarsi su questa forza. E Giuseppe e Maria accolgono serenamente insieme, possiamo dire così, l'uno dell'altra i propri difetti. Non nel senso di peccati, sappiamo che la Madonna non ha peccato e Giuseppe era un uomo giusto, però questi sono limiti, sono distrazioni, non si sono accorti, non ci hanno pensato, però l'uno dell'altra accoglie nel suo cuore il limite, un errore, un modo di fare o di essere che non piace. Sopportare vicende e difetti, sì, ma anche di più è il compito dei genitori, questa è la strada, la loro strada verso il cielo. Degli sposi e dei genitori, amare i difetti dell'altro. Questa è la meta. So che non è facile, però dobbiamo puntare a questa meta. Considerare i difetti dell'altro, del coniuge, anche dei figli, come il loro cammino verso la santità, i difetti che non sono peccati, perché i peccati bisogna accettarli quando arrivano e chiedere perdono, cercare di lottare per non cadere. Però quando ci sono difetti, questi sono un talento addirittura, perché sono una possibilità di rendersi conto del proprio limite, quindi di essere umili, quindi di chiedere aiuto a Dio, quindi di chiedere aiuto agli altri, di appoggiarsi sull'aiuto degli altri. Insomma, sono un grande talento da far fruttare. Per questo dobbiamo amarli. Non è facile, ma è possibile, e lo chiediamo a Maria e Giuseppe con questa decina del rosario. Insieme cercano di trovare un rimedio, e quindi anche la difficoltà diventa un'occasione per loro di ulteriore unione. E in un certo senso possiamo dire così: se è vero che erano separati uno da una parte e uno dall'altra, e così hanno perduto il proprio figlio, stando uniti lo ritroveranno. Io ho conosciuto una volta un sacerdote molto, molto in gamba, e che è morto qualche settimana fa, e ai genitori, quando andavano da lui al suo confessionale preoccupati per un figlio, per i figli, consigliava in genere di stare uniti al coniuge, no? Dice: tu e alla moglie stai unito a tuo marito, al marito tu stai unito a tua moglie, vedrai che anche tuo figlio starà meglio, perché quando la nostra origine, che sono i nostri genitori, è salda, è unita, è armonica, è felice, i figli stanno bene. E infatti, quando questo sacerdote è morto il 5 ottobre di quest'anno a Verona, in una chiesa del centro, hanno riempito il suo confessionale di fiori e hanno lasciato accesa per giorni, ecco, quella lucetta, come a dire che attraverso quel confessionale hanno in tanti ricevuto la luce della grazia e la luce del consiglio buono. Quarta inquadratura, e la possiamo chiamare così: l'estasi dei maestri del Tempio e l'amore per la verità rivelata. San Luca dice così: dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Ecco, Giuseppe e Maria lo hanno cercato, forse lo hanno cercato altrove, e forse non lo pensavano ancora così maturo da stare nel Tempio a parlare con i dottori, a sostenere la loro conversazione. E fin da bambino Gesù avrà ricevuto una formazione religiosa di base, ma no, a lui non basta, cerca Gerusalemme, cerca il Tempio, cerca la casa di suo padre, cerca il luogo dove si sa di più di Dio. Chi conosce Dio e la storia della salvezza meglio di lui che il figlio di Dio? Nessuno. Però lui, come uomo, come ragazzo, dalla mente fresca, preparata ad accogliere la verità, ha voglia di sapere, vuole che quell'intelligenza umana dia tutto il frutto che può dare. L'ha ricevuta come un dono da suo padre Dio, proprio l'intelligenza da ragazzo, da adolescente. Allora noi possiamo pregare così: o Dio onnipotente, che hai disposto che il dialogo con i maestri del Tempio fosse il primo episodio che i Vangeli ci raccontano di Gesù, non più bambino, concedici per la sua grazia di coltivare sempre uno zelo ardente per conoscere la verità che ci rende liberi. Gesù, dice il Vangelo, che Gesù sta seduto in mezzo ai dottori. In qualche quadro lo si vede in piedi, invece il Vangelo dice seduto. E mi viene in mente però qualche raffigurazione in cui lo si vede seduto. Per esempio mi viene in mente la cappella dedicata a questo mistero nel Sacromonte di Varese. Gesù è seduto come su una cattedra, è vero, infatti il senso dell'essere seduto, solo i maestri potevano stare seduti, significa che Gesù già da dodicenne dimostra quello che sarà la sua vita, lui sarà il maestro per eccellenza, è segno della stabilità della sua persona, del suo pensiero. E ecco, e si manifesta anche, è bello anche vedere come nel Vangelo si vede che mentre i Vangeli apocrifi qui raccontano cose mirabolanti, miracoli eccetera, invece il Vangelo ci dà una immagine di Gesù adolescente, senz'altro che manifesta, che fa estasiare, questa è la parola dell'originale greco, è quasi proprio questi maestri sono estasiati dalla sua intelligenza, però tutto sommato rimane un adolescente, un ragazzo, per cui anche interroga i maestri, anche dà delle risposte, forse è interrogato, possiamo pensare così, e quindi è un'immagine molto verosimile, cioè ogni adolescente si può identificare in Gesù che impara, in Gesù che studia, in Gesù che ha la passione della verità vera e che si dedica tempo, 3 giorni a studiare, e soprattutto possiamo pensare, studiare la verità di Dio, studiare la fede, deve essere la passione dominante di tutti i cristiani, dovrebbe essere la passione dominante di tutti gli uomini di buona volontà. Che cosa c'è di più importante di Dio, di più vero di Dio? Tutte le altre scienze, tutte le altre sono secondarie, sono create da Lui, si capiscono meglio nell'inquadramento della dottrina della fede. Allora, per fare questo, noi tutti i cristiani si dedicano, vanno a lezione di teologia, accendono Radio Maria con tutte le opportunità formative che dà, leggono libri, leggono la Bibbia, studiano il Magistero della Chiesa. Infatti il Papa, sappiamo con certezza che se facciamo questo possiamo fare contento, cioè seguire l'intenzione di Papa Benedetto XVI, lui è un maestro della fede, la sua scienza è meravigliosa dal punto di vista teologico e non solo, e lui nell'anno della fede ha questo desiderio, scriveva nella Porta Fidei, l'anno della fede dovrà esprimere un corale impegno per la riscoperta e lo studio dei contenuti fondamentali della fede che trovano nel Catechismo della Chiesa Cattolica la loro sintesi sistematica e organica. Qui infatti emerge la ricchezza di insegnamento che la Chiesa ha accolto, custodito e offerto nei suoi 2000 anni di storia. Dalla Sacra Scrittura, ai padri della Chiesa, dai maestri di teologia, ai santi che hanno attraversato i secoli, il Catechismo offre una memoria permanente dei tanti modi in cui la Chiesa ha meditato sulla fede e prodotto progresso nella dottrina per dare certezza ai credenti nella loro vita di fede. Possiamo appassionarci a questo lavoro di studio, a questa lettura, perché lì troviamo, come dire, quello che è la nostra grande famiglia, che è la Chiesa, la famiglia dei credenti, dei figli di Dio, lungo 2000 anni di storia ha pensato, ha creduto, ha approfondito, è stata arricchita dallo Spirito Santo. Per cui ciascuno di noi deve trovare quel tempo per studiare la verità rivelata dal Signore e poi spiegata dalla Chiesa. Quinta inquadratura, la chiamo così, i sentimenti di Maria e di Giuseppe. In effetti nel versetto 48 si vedono i sentimenti, la Madonna, Maria e Giuseppe entrano, vedono Gesù con i dottori e che cosa pensano, che cosa dicono? Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Giuseppe e Maria, pieni di stupore, guardano Gesù fanciullo nello splendore del suo mistero, unico e sorprendente come ogni figlio, e molto di più. Maria, che ha la priorità dell'iniziativa nel dialogo, cita Giuseppe prima di sé: tuo padre e io ti cercavamo. Con queste finezze rinsalda quotidianamente l'unità del matrimonio. Maria domanda a Gesù, come all'angelo nell'Annunciazione, per sapere: perché tu, figlio mio, non hai fatto nulla per evitare l'angoscia a tuo padre e a me? Qual è il motivo nascosto di tutto ciò? Gesù, lo vedremo poi nella sesta inquadratura, non risponde come un angelo, ma come un adolescente che è il figlio di Dio. Non c'era motivo di cercarmi, di angosciarvi, dovevate sapere che mi interessano le cose del Padre mio. Preghiamo così: o Dio Onnipotente, che hai lasciato che Maria e Giuseppe cercassero angosciati Gesù per 3 giorni, concedi a noi tutti di trasformare i momenti di angoscia in ricerca perseverante del tuo figlio divino, per domandargli a tu per tu il senso di ciò che accade. Noi facciamo uno zoom sul volto di Giuseppe e di Maria in questa inquadratura. Vediamo che sono stupiti e sono anche angosciati, ma sono sempre uniti e sempre desiderosi di scoprire il mistero del figlio. È un dialogo di relazione educativa che parte dalla conoscenza reale delle motivazioni del figlio. Motivazioni che a loro sfuggono. Ricordo anche qui, perché bisogna imparare molto dai sacerdoti più grandi, con più esperienza, anche dai più giovani. E un sacerdote una volta mi consigliava di provare a dare questo consiglio quando c'è una difficoltà di relazione in famiglia. Prova a consigliare questo. Tu e le persone che non si capiscono, che uno dica: fammi capire cosa succede, fammi capire come mai, fammi capire dove sbaglio. Questa domanda, fammi capire, è molto bella, perché denota il desiderio di capire, un'apertura, e anche il fatto che uno è disponibile a scoprire che è lui che sbaglia per primo in una relazione familiare o di amicizia. E, ecco, mentre i dottori del Tempio sono estasiati, contentissimi, e Gesù anche, Maria e Giuseppe invece sono preoccupati, angosciati, stanchi, e questo è un contrasto. E però quante volte accadono questi contrasti nella vita? Forse accadono soprattutto quando c'è un figlio adolescente che fa i suoi programmi senza dire ai genitori, è contentissimo con i suoi amici, e invece i genitori appena vengono a saperlo, appena lui torna a casa, sono preoccupati e gli fanno queste domande. Ecco, quante volte abbiamo visto episodi di questo tipo? Allora i genitori devono imparare a fare come Gesù e come Giuseppe e come Maria, che domandano per capire, pur senza nascondere la loro angoscia. E forse anche i genitori possono trovare conforto nell'esempio di Giuseppe e di Maria, perché sapere che queste due persone così sante, scelte da Dio per essere la madre del figlio e lo sposo e il padre, diciamo così, adottivo di fronte a tutti, e anche per lui, colui che l'ha educato, che gli ha insegnato tante cose del lavoro e della vita umana, loro hanno avuto questa difficoltà, hanno avuto una difficoltà a capire il figlio e non sapere che fare, che cosa dirgli, e quindi penso che possano confortare e anche aiutare. A loro chiediamo un aiuto speciale per i genitori nel loro compito educativo a volte molto difficile. Sesta inquadratura. Sono le risposte di Gesù adolescente, e possiamo chiamarlo, ecco, che ci aprono, come dire, il valore santificante e redentivo delle difficoltà familiari, e anche una piccola accenno alla vocazione dei figli. Egli rispose loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Sono le prime parole di Gesù riportate dai Vangeli. Sono due domande rivolte ai suoi genitori sulla terra, per svelare loro il suo rapporto con il Padre del Cielo e la missione che gli ha affidato. Gesù non separa Maria da Giuseppe, perché Dio li ha uniti in un matrimonio vero, anche se virginale. Perché mi cercavate? Non sapevate. Gesù, senza peccato, ha voluto vivere una umana incomprensione senza colpa tra persone che si vogliono bene, persone sante. Quindi anche tra persone sante che si vogliono bene, a volte non ci si capisce. Ci insegna che anche queste realtà sono orientate al compimento della sua missione e manifestazione del suo essere davvero Dio e uomo. La risposta di Maria e di Giuseppe è silenzio, perché non è tutto chiaro e sentono il bisogno di meditare ciò che hanno vissuto e ascoltato. O Dio onnipotente ed eterno, che ci hai svelato come Gesù dodicenne viveva la priorità della dedizione a te e alle tue cose rispetto a ogni affetto familiare, concedici la grazia di appassionarci alla diffusione del tuo regno e rendi le nostre famiglie disposte a servirti in ogni circostanza. Ecco, alcuni autori pensano che andrebbe tradotto, invece che stare nelle cose di mio padre, nella casa di mio padre, no? Lui sta nel tempio, perché in effetti nell'originale non c'è il vocabolo casa o cose, c'è solo l'articolo al plurale, quindi alcuni pensano che si possa anche intendere così, che non sapevate che dovevo stare nella casa di mio padre? Ecco, quando Gesù dice mio padre, padre mio, si contrappone a quello che ha detto la Madonna, tuo padre, quindi c'è il padre terreno e il padre celeste. E questo, in questo senso, Gesù dice delle cose molto forti per Giuseppe e per Maria. A me personalmente entusiasma contemplare che Dio si è fatto veramente uomo, è uguale a noi in tutto, quindi anche uguale a noi, anche nelle dimensioni psicologiche delle età evolutive, ha passato le varie età dell'uomo, e anche quel passaggio importante che dalla fanciullezza porta all'adolescenza. Quindi Gesù vive da Dio fatto uomo quello che ogni adolescente vive e ha bisogno di vivere, quel bisogno di distanziarsi, di rendersi autonomo dai genitori da cui prima dipendeva in tutto nella fanciullezza. E anche in questo Gesù è veramente uomo, cioè è stato, possiamo dire, Gesù è stato adolescente davvero, ha vissuto certo in modo assolutamente santo e divino, insomma, questa fase della sua umanità, e siccome è senza peccato, Dio approfitta di questo passaggio necessario nella crescita della sua umanità per rivelarci il suo mistero, la consapevolezza della sua filiazione divina. Da ragazzino, adolescente, lui era consapevole di essere il figlio del Padre, e rivela, ecco, questa rivelazione di questo mondo meraviglioso interiore, di questo mistero dell'incarnazione, di questo mistero dell'unione ipostatica, potremmo dire con termine teologico, no? Vero Dio, vero uomo, e due nature unite, no? nella persona del Verbo, in un adolescente. Tutta questa rivelazione avviene grazie all'angoscia di Giuseppe e di Maria, grazie alla loro domanda, al fatto che non capiscono. Grazie Maria e Giuseppe, no, di essere stati così semplici, così umani, no? E così schietti nel chiedere a Gesù, di cui voi sapevate la grandezza, e però era vostro figlio, quindi potevate domandargli conto. Come mai hai fatto questo? Ecco, un'ultima accenno alla vocazione dei figli, quando a volte può succedere anche che la vocazione del figlio i genitori, anche credenti, anche praticanti, possano non capirla, e a volte è perché è una vocazione diversa dalla loro, per esempio le vocazioni al celibato, la vocazione alla verginità e la vocazione al sacerdozio sono diverse dalla vocazione al matrimonio, i genitori possono non capire. Allora io penso, anche il Papa Benedetto XVI, parlando dei genitori dei seminaristi, diceva che loro avevano la vocazione di genitori di seminaristi, di futuri sacerdoti, e dovevano poco a poco imparare questa nuova vocazione loro. Quindi allora anche in questo i sei genitori si affidano alla famiglia di Nazaret, sicuramente verranno aiutati. Allora, l'ultima inquadratura, ritorno a Nazaret, il valore dell'obbedienza di Gesù e della vita ordinaria, 30 anni di vita a Nazaret. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore, e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. E Gesù, pur essendo il loro creatore, di Giuseppe e di Maria, sta sottomesso alle due splendide creature a cui si è affidato. Non c'era nulla di disobbedienza in quei tre giorni di assenza, ma era una rivelazione della sua missione e una preparazione del suo futuro. Nei suoi 30 anni di vita ordinaria, uguale a quella della maggior parte degli uomini e delle donne di ogni tempo, della maggior parte possiamo dire dei santi del cielo, non viene manifestata esplicitamente la sua divinità, ma non c'è neanche nulla di nascosto. La sua vita è bella, è buona e ben visibile a tutti gli uomini. Cresce l'età, cresce il suo corpo, aumenta ciò che sa per apprendimento, per esperienza, e cresce anche la visibilità esterna della sua unione con Dio, la grazia. La nostra vita normale è stata vissuta dal nostro Dio fattosi uomo, dunque può essere piena di Dio e servire insieme a quella di Gesù per redimere la storia e ogni uomo. O Dio onnipotente, che hai voluto che il tuo figlio Gesù vivesse una vita come la nostra, fatta di impegni ordinari, fa che anche noi, come Maria, meditiamo tutte queste cose nel nostro cuore e concedici di crescere nella nostra quotidianità in sapienza e in grazia davanti a te e agli uomini. L'obbedienza di Gesù sembra in contrasto con quello che ha detto prima, ma non è così. Dio apprezza infinitamente l'obbedienza, lui è venuto per obbedire, ecco mio Dio, vengo a fare la tua volontà. E perché il peccato dell'uomo è stato di disobbedienza all'inizio, il peccato di Adamo ed Eva. San Francesco di Sales dice: invoca Dio, chiedigli di darti le sue gioie, presentati al tuo confessore, spalancagli le porte del cuore, mostragli tutte le pieghe della tua anima, ricevi i consigli che ti darà con semplicità e umiltà, Dio che ama infinitamente l'obbedienza sa fortificare i consigli che si ricevono dalle labbra dell'altro, anche quando sono poco appariscenti, come rese utili per Nathan le acque del Giordano. Allora, Dio che ama infinitamente l'obbedienza. E poi guardiamo Maria che medita tutte queste cose, quindi vuol dire che il tempo aiuta a comprendere i misteriosi progetti di Dio. Non dobbiamo avere fretta di capire tutto subito. Avremo tutto il paradiso con i santi del cielo e non arriveremo mai a comprendere Dio totalmente in tutta la sua essenza, però non ci stancheremo mai, non ci sarà mai nessuna noia, sarà tutto sempre ricco, colorato, diverso, con infinito amore di Dio e con infinito amore per tutte le persone. E sarà molto attivo anche il nostro cielo, desideriamo che sia così, come quello di Santa Teresina che dice: il mio cielo consisterà nel fare tanto bene sulla terra. Loro sanno di più, i santi del cielo, quindi chiediamo a loro che ci aiutino ad avere visione di Dio nella nostra vita diaria, a meditare come Maria le cose anche che non capiamo e anche ad essere incoraggiati da questo crescere di Gesù. Gesù cresce, allora anche noi possiamo crescere, dobbiamo crescere sempre, lungo tutta la vita, fino ad arrivare alla pienezza di Cristo in noi, alla maturità, a quando saremo pronti per godere della sua vista in cielo, grazie all'intercessione della Madonna, di San Giuseppe, dei santi del cielo e degli angeli. Ho finito. Pronto? Pronto? Pronto? Sei pronto, don Andrea? Sì. Grazie infinite per questa bella spiegazione. Speriamo veramente che tutte queste cose scendano nel nostro cuore, Bene, grazie Dontino, grazie anche a te e a Radio Maria perché mi date l'occasione di rientrare in questi brani del Vangelo che sembrano conosciuti e invece rivelano sempre cose nuove, cose molto belle per la nostra vita. Dunque devi dare l'indicazione del libro, titolo, autore, editrice. Sì, allora si intitola Contemplare Cristo con gli occhi di Maria, i misteri del Rosario meditati, e edizione Paoline, e l'autore è Andrea Mardegan, che sono io, e ecco. Sì, mi pare che sia già la seconda edizione, se non sbaglio. Sì, è già la seconda edizione e... Insomma, penso che sia un libretto che può aiutare chi desidera dare contenuto alla preghiera del Rosario, secondo quelle che erano state le indicazioni ancora di Giovanni Paolo II nel 2003, quando fece l'anno del Rosario e che ci consigliava proprio di fare una meditazione dei misteri sulla Sacra Scrittura e poi fare in modo che quello che avevamo diventasse preghiera. Quindi contemplare Cristo con gli occhi di Maria. Con gli occhi di Maria, i misteri del Rosario meditati, sono tutti eventi, no? Anche quelli nuovi della luce. Certo, tutti eventi. Con i Paoline, sì. Benissimo, e grazie infinite, don Andrea. Tanti, grazie a te, don Tino. Tanti auguri e buon lavoro. Prega sempre per noi e San Giuseppe Maria Escrivà. Per tutti voi, va bene, per Radio Maria, per tutti gli ascoltatori. Arrivederci. Grazie, buonanotte, grazie. Buonanotte.